Bentornate e bentornati in diretta sui microfoni di Radio Wombat. Sono un pochino in ritardo, ma non così tanto da meritare di essere rimproverato in maniera troppo severa. Oggi è il 9 maggio, è sabato 9 maggio, sono le 7:20 circa. E siccome l'altra volta, nelle mie scorse dirette di sabato, in cui io di solito faccio appunto coccoli a silicio, mi sono però dimenticato di mettere l'importantissimo inserto che mi arriva da circa 3 settimane. Questa è la terza puntata, l'inserto canna e camicia, inserto sulla meccanica a spicciola. E quindi pensavo a questo giro di iniziare proprio con questa cosa qua, prima che appunto io poi passa il tempo, aumenta la fame, perdo la cognizione di cosa sto facendo in maniera precisa e mi dimentico di metterlo. Allora ho detto, a scanso di equivoci, io lo metto subito. Sono i primi 25 minuti di trasmissione che ci tengono compagnia. Poi, terminato l'importantissimo inserto che oggi tratterà la pressante tematica delle telaio e sospensioni, che tra l'altro è comodissimo anche se non vi frega niente di motori, anche solo nella bicicletta, secondo me è comunque una roba utile da conoscere. E appunto, e poi dopo invece torneremo a parlare ancora un pochino della questione della app, o meglio delle app, visto che appunto sono usciti dei documenti abbastanza interessanti sull'app francese, che tra l'altro in maniera abbastanza buffa dicono quasi le stesse cose che un po' tutto il giro degli eClub e limitrofi anche di altre città d'Italia dice di quella italiana, però non ci siamo messi d'accordo. Evidentemente è una cosa che salta all'occhio a chi ha una certa sensibilità e si occupa di tecnologie, cioè a tutti quanti ci sembra solo fuffa e, boh, e ci saremo stronzi noi, però cioè, così è. E quindi niente, vi lascio ora con canna e camicia, se mi riesce di farla partire, perché è sempre appunto difficilissimissimo fare queste cose con l'audio dalla regia casalinga, ma presto magari un giorno riuscirò a tornare a trasmettere una regia vera e non in questo sgabuzzino di merda con il computerino di merda. Ecco. Dunque, allora, si diceva, speciale canna, no, inserto canna e camicia, telaio e sospensioni. Spero di riuscire a farla. Vi auguro buon ascolto. Forse inizierà un pelino dopo che il registrante ha già detto ciao, però questo mi permettono di fare i miei scarsissimi mezzi tecnologici. Sera o buonanotte, insomma, buona. Benvenuti a Canna e Camicia. Oggi vorrei parlare del telaio e delle sospensioni, sia del vostro scooter, sia chiaramente anche un po' in generale. A cosa serve il telaio? Beh, di base è chiaro, la sua funzione è appunto di connettere le ruote e lo sterzo al vostro corpo. Quindi, oltre che le ruote, dovrà contenere il motore, i suoi accessori e ovviamente il pilota. Quali sono le funzioni geometriche che deve svolgere? Garantire un desiderato angolo di sterzo, una vancorsa e un angolo di sterzata, non solo, ma anche una corretta distribuzione dei pesi. Prima cosa, e forse la più importante, ma anche la complessa, è la vancorsa e l'angolo di sterzo. Ci vorrà molta immaginazione, prendete quindi un telaio il più facile da immaginare, cioè per me quello classico della bicicletta. Noterete che per connettere in maniera dinamica lo sterzo al telaio, perché ovviamente deve potersi muovere, è presente anteriormente un tubo vuoto dentro il quale girerà un altro tubo che invece è connesso da una parte alle ruote e dall'altra al manubrio. Questo tubo vuoto, che è un elemento del telaio, si chiama canotto di sterzo, con due N e non una sola, non è un canotto. Il canotto, noterete, come non è mai perpendicolare al suolo, ma la parte bassa ha sempre un po' di grado di inclinazione verso l'avanti. quindi anche il porcellone non saranno mai perpendicolari al suolo, ma anch'essi saranno inclinati. Questa inclinazione è detta angolo di sterzo. Insieme al diametro delle ruote sarà quello che determinerà l'avancorsa. Infatti, se continuate idealmente a tirare una retta lungo la direzione del canotto di sterzo, a una certa toccherete terra. Il punto di contatto sarà un po' più avanti rispetto al punto di contatto dello pneumatico o il terreno. La distanza che c'è tra il punto di contatto ideale del canotto e quello dello pneumatico è l'avancorsa. Perché è così importante l'avancorsa? Quella misura è la leva delle forze delle ruote, cioè tutte le forze di cui avevamo parlato nella scorsa puntata, e che quindi trasformano la forza in un momento, facendo perno sul coefficiente della ruota. Cos'è un momento? Un momento è una forza moltiplicata per una leva o un braccio, a seconda di come vogliamo chiamarlo. Quindi, ponendo l'avancorsa a zero, quindi un canotto, una forcella perpendicolare al terreno, dovremo moltiplicare per zero tutte le forze generate dalle ruote. Ovviamente significa che non possiamo stare retti. Pensate ora, per assurdo, che l'angolo di sterzo sia negativo, cioè il canotto punterà verso la ruota posteriore. Si genera un'avancorsa negativa e perciò più sono forti le forze che normalmente ci tenevano in equilibrio, più esse tenderanno a farci cadere. Adesso un pezzetto musico. Ovviamente oggi tutta musica che contiene la parola frame o chassis, e quindi Diane Reeves and Lew Rawls con Fine Brown Frame. Yo, blood, check it out, boy, is she hitting on all nine, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out? It is too hip for me, you dig? Hey, mama, you've got a fine brown frame, and I wonder what could be your name. You look good to me, 'cause all I can see is your fine brown frame. Tell me, how long have you been around? Baby, when did you hit this big town? I wanna scream, 'cause I've never seen such a fine brown frame. Now all that I have is a broken down chair, but I would gladly make you queen on my throne. Don't be a square, why don't you come over here? 'Cause together we can really get it on. Now you got a fine brown frame. Oh baby, won't you tell me your name? You are solid with me, 'cause all I can see is your fine brown frame. Look good to me, 'cause all I can see is your fine brown frame. Tell me, how long have you been around, baby? When did you hit this big town? Now I wanna scream, ow, 'cause I never seen such a fine brown frame. Now all that I have is a broken down chair, but I would gladly make you king on my throne. Why don't you come over here? Together we could really get it on and on and on. And you got a fine brown frame, and I wonder would you tell me your name? You're solid with me, 'cause all I can see is that fine brown frame. Now listen, Dinah, Dolly, Madonna and Mabel, they are all fine as Mick and Sable. You may not be classed with the elite, baby. I try. And you may not be hip to that jive like they talk in the street. Whoa, whoa, whoa, whoa, baby, yo. You look like Venus done up in bronze. And I know I'm a clown whenever you're around, because I'm crazy about. I'm crazy about. Mad about. I'm mad about. I'm nuts about. Nuts about. What about your fine brown frame? About you, baby. prima ho parlato del diametro ruota, ma cosa c'entra con l'avancorsa? Allora, pensate che normalmente il punto di contatto con il terreno dello pneumatico è sulla perpendicolare dove passa anche il centro ruota. Quindi, se tipo legate il filo a piombo nel centro ruota, esso toccherà a terra esattamente nel punto di contatto dello pneumatico. E questo sarà indipendente dalla dimensione del raggio. Però, invece, se idealmente tirate una retta che segue la linea del forcellone e abbassate il centro della ruota e quindi insomma essenzialmente diminuite il raggio, anche il punto di contatto ideale della forcella arretrerà, diminuendo così l'avancorsa. Quindi se montate una ruota piccola su uno scooter e ruota alta, praticamente diminuite tantissimo l'avancorsa. Ma invece cosa succede quando prendiamo un ostacolo? Il punto di contatto con il terreno non sarà più lungo la perpendicolare, ma sarà molto più avanti e che quindi diminuirà anch'esso l'avancorsa. Se l'ostacolo è particolarmente grande, potrebbe rendere anche l'avancorsa negativa ed è per questo che superare gli ostacoli rende i mezzi a due ruote instabili. Ovviamente più grande sarà la ruota, meno l'ostacolo andrà a incidere sull'avancorsa. Io metterei anche un altro pezzettino. A questo giro con la parola chassis, Lucifer and Helios con Shake Your Chassis. You know what you don't like, hell, hubba, hubba, hubba, hubba. Baby, let's talk about costume pleasure. I can get you everything you treasure. I got lots of good love without measure. Let me lift your bonnet and shake your chassis. In the dust, in the dirt, I live there, hair skirt, hubba, hubba, hubba. Let me have a closer look at your motor. Woo! I think my friends will love a photo. I've got something swell, I want you to hold as well. If you lift your bonnet and shake your chassis. Your bonnet and shake your chassis. If you lift your bonnet and shake your chassis. If you lift your bonnet and shake your chassis. Passiamo ora all'angolo di sterzata. Esso è il raggio della curva che lo scooter esegue a parità di sterzata sul manubrio. Lo ripeto. Esso è il raggio della curva che lo scooter esegue a parità di sterzata sul manubrio. Pensate a delle forcelle parallele al terreno, quindi completamente orizzontali. Ovviamente non esistono, però è per spiegare un attimo questa concezione. Allora, se le forcelle sono parallele al terreno, quindi l'angolo di sterzo è di 90 gradi. Ricordatevi che l'angolo di sterzo non è l'angolo di sterzata, ma è l'angolo dell'inclinazione del canotto di sterzo. Quindi angolo di sterzo a 90 gradi, avancorsa teoricamente infinita. Allora, quando per assurdo girerete il manubrio, la ruota continuerà a puntare dritto, ma si sposterà solo sul fianco. Quindi non avrete nessun cambiamento di direzione. In poche parole, nonostante abbiate girato il manubrio, non potrete curvare. Questo lega inevitabilmente l'angolo del canotto di sterzo all'angolo di sterzata. Infatti, quanto maggiore è l'angolo del canotto di sterzo, tanto maggiore è l'angolo della curva che lo scooter esegue a parità di sterzata sul manubrio. Immaginatevi i classici chopper tipo Harley Davidson alla Easy Rider, quindi con forcelle inclinate e lunghe. È facile intuire che loro, per fare un giro su se stessi, dovranno disporre di uno spazio enorme. Questo è per il discorso che facevamo prima. Ora, penserete che nei telai degli scooter a ruote piccole l'angolo del canotto di sterzo sarà maggiore per bilanciare il minor diametro della ruota e quindi per mantenere una vancorsa notevole. Invece no, perché si suppone che lo scooter a ruote basse abbia anche il baricentro più basso e quindi necessita di minori forze per rimanere in equilibrio. Altri due parametri che determinano l'angolo di sterzata sono l'inclinazione, e quindi essenzialmente quanto state piegando, che in gergo comunque si chiamerebbe angolo di rollio, e in più, ovviamente, più state in piega, più stretto è il raggio della vostra curva. Questo perché sia per via dell'inclinazione del manubrio, sia per via del disegno della ruota da moto, si cerca una diminuzione della vancorsa. L'altro fattore è il passo, cioè la distanza tra il centro ruota anteriore e quello posteriore. Ovviamente più è lungo lo scooter, più larga sarà la vostra curva. Quindi pensate quanto è importante, e oltretutto dovrà avere una certa rigidità e resistenza allo stress. Quando curvate, la ruota anteriore si trascina dietro la posteriore, mandando in torsione il telaio. Quando prendete una buca invece, pensate alla forza che si genera nella saldatura del canotto di sterzo. Quello è uno dei punti più delicati del telaio. Tutto ciò dovrà contenere il motore e tutti i suoi accessori, dando un bilanciamento totale e preciso tra anteriore e posteriore e un baricentro corretto. Abbiamo visto prima quanto può incidere il baricentro e tutta la ripartizione dei pesi cambierà totalmente la dinamica dello scooter. Allora, a questo punto abbiamo parlato delle forze, o meglio dei momenti, in gioco. Allora posso parlare della forma e dei materiali. Normalmente hanno una forma a culla aperta, cioè con una U dove un lato è attaccato al canotto di sterzo e l'altro al motore, che nello scooter fungerà anche da forcellone e da supporto per la sospensione posteriore. E sopra di esso un altro pezzo di telaio che funge solamente da seduta per il pilota e per il supporto per la sospensione posteriore. Normalmente il tubo è fatto in tubi d'acciaio e tende, per motivi di forma e rigidità, a sdoppiarsi all'altezza del canotto di sterzo poco sotto e poi continuare sdoppiato e poi ricongiungersi dopo la seduta del pilota. Capite come la forma a culla aperta è notevolmente poco rigida e questo non porta buoni benefici alle alte velocità, né ovviamente nelle curve ad alta velocità. Ci sono storicamente delle diversità, tipo il telaio della Vespa, che era sì in acciaio ma era una scocca autoportante e non in tubi, oppure l'Honda X8 RS, che invece era un presso colato in alluminio. L'ultimo brano, e poi farò un breve cenno perché sono molto complesse a livello meccanico, delle sospensioni, gli Arctic Monkeys con The Frame 2R. One on his arm in every land that he roams. And you gon' take it tonight. Le sospensioni sono normalmente composte da una parte che assorbe l'urto in maniera elastica, tipo una molla, e una parte idraulica che ne rallenta e ne stabilizza l'ondeggiamento, che altrimenti la molla seguiterebbe a fare. Per le sospensioni anteriori normalmente si adottano quelle telescopiche, quindi un tubo che scorre dentro un altro tubo. Internamente sono presenti una molla, bagno d'olio e un pompante idraulico, tipo un siringone, che in compressione sarà più o meno neutro, ma il rilascio rallenterà la molla facendo passare l'olio da dei piccoli ugelli. Tanto più piccoli sono gli ugelli, tanto più lento sarà il ritorno. Un altro settaggio che possiamo fare è tramite il precarico della molla, cioè mettendo in compressione di default la molla per renderla più dura. In più, maggiore è l'angolo del canotto di sterzo e peggio lavoreranno perché si troveranno in posizioni più orizzontali. La posteriore è uguale, ma la sospensione inferiormente avrà un aggancio sul carter del motore e sopra sul telaio. Anche qui, modificando l'inclinazione della sospensione, possiamo ridurre il funzionamento o aumentarlo. Una cosa interessante è che quando siamo in frenata, le sospensioni anteriori comprimendosi si accorceranno e andranno a diminuire l'avancorsa, diminuendo la stabilità ma facilitando l'ingresso in curva. In più, abbassandosi, porteranno a spostare i pesi all'avantreno, aumentando il coefficiente d'attrito dello pneumatico. Modificando la sospensione posteriore, allungandola ad esempio, si rende permanente uno spostamento dei pesi all'avantreno e una diminuzione dell'angolo di sterzo e conseguentemente dell'avancorsa, il che significa una minore stabilità ma una maggiore maneggevolezza. Ovviamente non posso dilungarvi troppo, ma capite bene quali implicazioni possono esserci nella ripartizione dei pesi a seconda della taratura e delle sospensioni e della lunghezza massima e minima. Vorrei aggiungere una parte di utilità a questa rubrica, cioè la possibile diagnosi dei problemi. Per il telaio le rotture sono rare ma possibili. Solitamente sono vicine al canotto di sterzo o all'inizio della pedana. Altri punti sollecitatissimi sono le piastre d'attacco del forcellone anteriore e del posteriore. La manutenzione consigliabile, classica, è il controllo degli uscimenti del canotto di sterzo, che si sente un toc e una variazione. Una vibrazione, scusate, sul manubrio in frenata in accelerazioni particolarmente brusche. La loro degenerazione col tempo continua e diventa poi una progressiva irregolarità nel girare lo sterzo. Nelle sospensioni, invece, quello che può succedere è un'usura del pistone idraulico o una perdita parziale di olio o una degenerazione dell'olio stesso. In questo caso si nota una perdita di progressione nella sospensione e un effetto di ondeggiamento dopo le buche. Un altro tipo di problema è la sensazione che le forcelle si impuntino o scorrono male o vadano a scatto. Questo è dovuto spesso all'usura dei supporti o boccole di scorrimento. Infatti, i due tubi telescopici, dovendo scorrere uno dentro l'altro, dovranno essere guidati per rimanere perfettamente paralleli, ma non lavorando perpendicolari rispetto al terreno, tenderanno a creare attrito durante lo scorrimento, tanto maggiore quanto è maggiore l'angolo di sterzo e il peso, portando quindi al consumo delle boccole. È un leggero surquadro degli steli che quindi tenderanno effettivamente a impuntarsi. Anche oggi è finita, ciao Wombat, e ricordate, riparate e non buttate. Però, essendo sabato sera, vi lascio in chiusura con l'ultimo pezzettino, un po' musica elettronica, così vi do la carica. Buona serata. Stefano Marazzi con Chassis. Dance with me. love is the key. Rieccoci, è terminato lo speciale canna e camicia, quindi ora riprendo, ora praticamente siete preparatissimi sul telaio e sospensioni, e ora riprendiamo la normale coccoli a silicio, che parla di cose noiosamente informaticose, non come le cose della meccanica che invece le paciocchi così e ti diverti un sacco, e io invece sto qua ad annoiarmi con tutte queste cose scritte e sti cosi, gli schermi e i mouse e la tastiera e queste cose qui. Vabbè, comunque riparliamo di questa cavolo di app, perché boh, perché c'è qualche novità piccola, c'è ancora niente di interessante, però sono successe due cose. Uno, si è espresso garante della privacy, si era già espresso un po' di tempo fa, però non ne avevamo in verità fatto cenno. Esso si è espresso il 29 aprile, la cosa è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 30. E che cosa ha detto? Ha specificato queste linee guida. Allora, ha detto: 1. L'installazione dell'app sarà volontaria e si dovrà garantire la parità di trattamento tra coloro che ne faranno uso e coloro che non ne faranno uso. Quindi sostanzialmente si è espresso in merito dicendo che non dovrà essere in qualche modo incentivata né deincentivata, e così ha detto. Poi, di chi sono i dati, che era un'altra delle questioni fondamentali, cioè chi si maneggia sti dati? Ebbene, la titolarità dei dati sarà del Ministero della Salute. E poi se li palleggia lui tra l'Istituto Superiore di Sanità, il Servizio Nazionale, insomma la Protezione Civile e le strutture pubbliche e private, praticamente li dà un po' in giro, però a quelli che ha un senso, secondo lui, ecco. E su questo si sono lasciati un po' aperti, non è che hanno detto beh, sì, ce li abbiamo noi e poi li diamo a chi ha senso, così, e vabbè. Poi cos'altro dice di interessante? Non tantissimo ancora. Allora, dice che a livello di scadenza è interessante che i dati possono essere mantenuti al massimo fino al 31 dicembre 2020 e poi devono essere cancellati. Poi dice che questi dati di prossimità dovranno essere anonimi o quantomeno essere pseudo-anonimizzati. E questo è indicazione vaga. Vedremo infatti anche dopo, appunto, questi documenti francesi, alcuni mettevano abbastanza in evidenza che parlare di tracciamento anonimo fa un po' specie. Ecco, nel senso che c'è troppe cose contribuiscono a riuscire a svelare questo anonimato, che è appunto più corretto dire pseudo, dopodiché pseudo però non dice niente nella fattispecie specifica della procedura, e quindi sostanzialmente pseudo anonimato può essere qualsiasi cosa, cioè potrebbe anche essere una cosa non, completamente non anonima, perché per de-anonimizzarla non ci vuole niente, è un dato pseudo anonimo. Scrivere deve essere pseudo anonimo, però senza specificare in cosa consista quello pseudo, e dare un'ideazione un po' vaga. E vabbè. D'altra parte, c'è da dire che Garante non è che si poteva esprimere su qualcosa già esistente, perché appunto il dato finora più sicuro è che la app ancora non c'è, e quindi uno c'ha poco da volersi, cioè si esprime ancora sul concetto. È così. Comunque niente, questo sostanzialmente dice il Garante, non è particolarmente illuminante, l'unica, cioè nel senso non è, lo è perché si è espresso, non è illuminante nei termini pratici di capire che cazzo farà sta cosa. L'unica indicazione appunto chiare sono che uno sarà volontaria, due entro il 2020 verranno cancellati i dati. Il dentro è un grosso buco, nel senso che non si sa bene in cosa consisterà, in cosa non consisterà, però c'è da rilevare una cosa interessante che è sempre successa questa settimana. Hanno pubblicato sul sito del Ministero dell'Innovazione un articoletto sul loro blog. Il sito del Ministero dell'Innovazione è fatto un po' a blog, c'ha tutti questi articoletti, e ce n'era uno che conteneva un link a un GitHub. Il GitHub dove la Task Force Covid-19 mette le proprie relazioni, i propri documenti. C'è da dire che per la maggior parte questo GitHub è ancora vuoto, però 9 giorni fa hanno pubblicato i documenti, che sono quelli che poi il governo ha esaminato, cioè la propria relazione in merito all'app, cioè al contact tracing, quindi non solo sull'app, ma in generale al contact tracing effettuato con metodi digitali. Questa relazione è stata consegnata il 7 aprile, è stata pubblicata poi circa 25 giorni dopo, o più perché era 9 giorni fa, quindi diciamo è stata pubblicata a fine aprile. Sì. Se i conti li so fare bene, è così. Di questa relazione, che è interessante a leggere, si capiva che loro hanno visionato varie app, poi alla fine ne hanno selezionate due perché c'avevano anche il piano B rispetto a Immuni, che è quella che è stata scelta, ma loro ne avevano indicato pure un'altra che si chiamava Covid App. E questa Covid app era presentata come piano B, perché metti che va male e Immuni poi non funziona, cioè al test su strada si rivela che non va, ci teniamo pure l'altra. Però per il momento pare che appunto, diciamo che a 7 aprile la situazione secondo me non era ancora così chiara, perché loro hanno presentato questa relazione, poi come sappiamo non abbiamo avuto un'app, per fortuna secondo me. Comunque non abbiamo avuto un'app, la situazione è diventata quello che è, cioè insomma, le carenze sanitarie di cui siamo afflitti sono diventate abbastanza chiare a tutti, probabilmente le priorità sono diventate tutt'altre rispetto a questo, che appunto secondo me non era una roba particolarmente poi utile ed efficace. In una situazione come quella italiana, cioè in una situazione dove comunque, che ne so, anche adesso che stanno iniziando a fare i sierologici, abbiamo il concreto problema di dire: ok, io faccio il sierologico, risulto positivo, ok, allora devo stare a casa, va bene, sto a casa, ma tu quanto ci metti a farmi il tampone? Perché se io poi devo stare a casa 2 settimane, come si fa? Perché io non ho copertura sul lavoro, cosa faccio? Mi metto in ferie? Perché dalla mutua possono dire che sono contagioso solo nel momento in cui il tampone mi viene effettuato e risulto positivo. Ma io non sono in questa condizione, io sono nella condizione che il sierologico ha detto che sono positivo. E quindi però non ho il tampone, allora il medico di base non mi può mettere in mutua, a meno che non si pretenda che il mio medico di base menta inventandosi una malattia che io non ho per potermi avere la mutua. In alternativa, io comunque sono a casa, ma non sono pagato. perché o per essere pagato mi devo mettere in ferie, perché altrimenti un altro motivo non ce l'ho, sono tipo un assente giustificato che non piglia una lira e sta lì a aspettare. E questa roba qui è problematica, no? Cioè, quindi voi immaginatevi una situazione tipo di falsi positivi con l'app, e questa situazione in mezza Italia, allora, per fortuna, diciamo, per fortuna che appunto abbiamo un R con 0 che è basso e quindi tendenzialmente attualmente l'epidemia si autocontiene. E nel momento in cui si autocontiene, le cose più o meno vanno, cioè anche senza fare grosso sforzo va tutto più o meno. Però immaginate una situazione dove inizia a crescere, la gente veramente si è installata a sta cavolo di app e iniziano a saltare fuori una svalangata di falsi positivi, falsi negativi, di gente da controllare, eccetera. Cioè, che si fa? Cioè, sono veramente sicuri di voler fare questa cosa? Perché già adesso non se la stanno cavando bene, no? Quindi, va. Comunque, in questa relazione, appunto, si legge che alla fine Immuni sembrava meglio perché era uno stadio di sviluppo più avanzato, e poi alla fine delineano un po' le cose che si dovrebbe fare per portare questa soluzione tecnologica a funzionamento. E di queste sono nasce uno schemetto abbastanza interessante perché di ognuna si delineano vantaggi e svantaggi. Cioè, per dire, loro dicono: adesso noi dobbiamo affrontare per portarla a termine, no? Che ne so, dobbiamo scegliere delle opzioni che vengono definite tecnico-organizzative, che consiste nel delineare sostanzialmente delle procedure, no? E dicono, ad esempio, facciamo un po', alcune di queste cose. Cioè, tipo, se noi dobbiamo scegliere cosa facciamo? Dobbiamo usare il Bluetooth Low Energy o dobbiamo usare il Bluetooth Low Energy.gps più i GPS? E allora, su ognuno di queste cose delineano vantaggi e svantaggi. Allora, te ne so, nel caso del Bluetooth Low Energy, i vantaggi sono, secondo questa relazione, no? Migliore protezione dei dati grazie a codici identificativi univici che contraddistinguono le installazioni delle applicazioni rese sufficientemente anonime in aderenza al modello quello là, cioè IPPPT, che poi si è capito che in realtà non lo facciamo così, però allora quando era uscita si era detto noi aderiamo a quel modello lì, che però poi, tanto una cosa buffa di questa cosa qui, è che il 7 aprile la commissione probabilmente lo conosceva lo standard IPPPT. Cioè, forse, perché attualmente a quella data non era pubblicato ancora, pubblico. Cioè, c'era una grossa polemica tra i vari crittografi che volevano analizzare quello standard con questi del PEPPPT, per il fatto che non l'avevano pubblicato su GitHub. Cioè, loro l'hanno pubblicato su GitHub 2 settimane dopo che questa relazione era stata consegnata. Quindi, quando questa relazione è stata fatta, gli unici che sapevano come era fatto quello standard, forse, erano quelli che hanno letto la relazione, ammesso che quello standard allora, cioè 20 giorni, cioè 2 settimane prima che venisse pubblicato su GitHub, esistesse già. E poi la cosa buffa è che è stato scelto forse, ma è stato scelto in una versione che non è quella che hanno pubblicato su GitHub. Perché? Perché in quelle 2 settimane si era consumato lo strappo tra un altro standard che era stato integrato dentro questo qui, dentro IPPPT, no? È lo stesso, quindi quello che è stato pubblicato non è esattamente quello che noi abbiamo scelto, ammesso che abbia un senso seguire questo standard, perché poi è stato sfanculato sostanzialmente anche da altri stati che hanno detto noi facciamo le cose secondo questo standard. E poi si è capito in realtà dai giornali, dalle cose, che noi in realtà facciamo le cose come ci permette di farlo Google ed Apple. Quindi alla fine noi non seguiamo questo standard qui, probabilmente non seguiamo neanche nessun altro standard, ma noi seguiamo quello che le API di Google e Apple ci permetteranno di fare. E cosa sono ispirate queste API? Un po' a tutti questi, ma a nessuno di questi. Cioè, un po' a tutti questi standard, ma a nessuno in particolare. Poi forse sarà possibile, però io queste API non le ho ancora viste, non l'ha vista ancora nessuno, infatti siamo tutti aspettare che succeda qualcosa in questo senso e penso che anche lo sviluppo dell'app sia fermo proprio perché bisogna aspettare che Google e Apple facciano il rilascio delle API. Perché probabilmente nel momento in cui ci sono delle API, allora tu puoi magari dire, ah, ok, puoi usare quelle API per realizzare lo standard XXY, per dire. Però fino ad allora in realtà siamo tutti qua a baloccarci con questa cosa qui. proprio baloccarci, perché l'utilità di questa cosa, secondo me, è un cazzo nulla. Comunque, si diceva: ah, quali sono gli svantaggi del Bluetooth Low Energy? E basta, cioè non soluzione con GPS. I vantaggi sono che sono meno copertura di situazioni con bassa presenza di device abilitati e mancata indicazione di luoghi di possibile contaminazione ambientale da sanitizzare. Allora, invece, con i GPS, quali sono i vantaggi e gli svantaggi? I vantaggi sono maggiore copertura rispetto alla base di smartphone diffusi in Italia ed Europa, maggiore potenziale per l'identificazione dei luoghi da sanitizzare. Svantaggi: uso di informazioni riconducibili a dati di carattere personale, posizione del device. Però, se io guardo questa cosa qui, capisco sostanzialmente che devo scegliere la B. Cioè, se io posso... Perché messa così, effettivamente uno dice: vabbè, ma io devo scegliere per forza la B. Cioè, mi tocca scegliere la B, perché con la B c'è maggiore copertura rispetto alla base di smartphone diffusi in Italia e in Europa. E già così mi hai detto che se dovevo totalizzare questo fatidico 60-70% di installazioni, che non si capisce bene da dove viene il numero, cioè si capisce, l'ho capito poi, viene da una relazione fatta da un coso che si chiama For Science, mi sembra, ed è una relazione di gente del giro oxfordiano. Quindi gente rispettata, è anche l'unico studio tra l'altro sul contact tracing che tutti ti citano, perché al momento quando era uscito era anche l'unico. Poi adesso ne sono usciti altri che criticano quel modello matematico e dicono: però secondo noi non è che funziona. Però è citato praticamente da tutti quelli che sostengono la necessità del contact tracing fatto con strumenti digitali. Vabbè. Comunque. E poi, se io leggo appunto questa cosa qui, secondo me si evince che la scelta giusta è la B, perché alla fine che me ne faccio della scelta quella là? E vabbè, e questo è già un pochino, però a me mi aveva fatto spazientire, perché dico: vabbè, però hai fatto una relazione che orienta la scelta della gente. Vabbè. Però l'altra cosa da decidere sono le policy da applicare per l'allertamento a seguito di contagio. E questa non è una cosa proprio, come dire, è secondaria. No, non lo è, perché su questa, cioè, ci si gioca un sacco di questa, uno da un punto di vista della privacy, dell'anonimato della cosa, ma anche ci si gioca un casino del possibile panico dei falsi positivi. O del possibile problema dei falsi negativi, cioè in base a come avviene questa procedura di avviso, si capisce se questa roba può avere un senso, oppure se sto solamente creando uno strumento di panico o uno strumento inutile. Inutile perché alla fine non aggiungerebbe niente, proprio per essere estrema, cioè nella consapevolezza dell'estrema possibilità di errore, finisce per essere un oggetto giocattoloso. Ecco. E qui si dice appunto: ci sono due procedure possibili. Una è la procedura manuale volontaria, cioè il possibile positivo dà una specie di autorizzazione esplicita all'app, fornendo un codice, un QR code che ti rilasciano quando ti risulti positivo al tampone, e comunica al server dicendo: ok, io adesso ho un codice che mi certifica come positivo. Quindi a questo punto è necessario avvisare i miei contatti. E questo posta, diciamo, e questa procedura, a seconda di come viene gestito le cose, cambia un pochetto. Perché se io ho, diciamo, se sono i telefoni che si scaricano la lista dei positivi, soltanto su quelli, e soltanto sul mio telefono che io poi faccio l'abbinamento, quindi solo io so se ho incontrato un positivo o no. E nel caso in cui invece questo abbinamento venga fatto sul server, anche il server sa se io ho incontrato un positivo o no. E su questo si giocano appunto le due robe. Un altro sistema per questa cosa qua dell'app, cioè se non avviene, cioè perché io potrei anche risultare positivo e poi dire: ok, io sono positivo, però non voglio che ne so, che le persone con cui sono entrato in contatto sappiano che sono positivo e quindi io non do la mia autorizzazione, non lo metto il codice. Comunque mi faccio la quarantena, sto a casa, ma semplicemente la mia app la disinstallo. Quello che invece è un altro scenario è quello che la procedura sia preautorizzata e automatica. Cioè io quando installo l'app do il mio consenso che nel momento in cui divento positivo, questa cosa venga gestita sostanzialmente dall'autorità sanitaria. A quel punto, secondo me, non si capisce più tanto dove sta il livello di anonimato, nel senso che per gestire questa roba qua, in qualche modo, cioè, nel senso, io sì, ho messo il QR code in questo senso qui, però se l'automatismo dell'avviso dei contatti avviene di default, diciamo, cioè avviene in automatico, senza che io abbia fatto niente, cioè significa che in qualche modo l'utilizzo dell'app nel caso di positività svela a quel punto cioè il mio anonimato salta in qualche modo, cioè la sanità pubblica sa che io sono positivo, quelli sono i miei contatti. Poi c'è il terzo problema che sono che è collegato a questo. Che sono le policy da intraprendere, in particolare le policy da applicare per garantire l'enforcement delle azioni di carattere sanitario conseguenti. E qui di nuovo ci sono due schemi delineati: uno è la procedura volontaria e uno è la procedura proattiva. La procedura volontaria, dice: questa opzione prevede che i contatti esposti al rischio di contagio rimangano non identificati, quindi non conosciuti alle autorità sanitarie, e che pertanto essi si assoggettino spontaneamente ai provvedimenti di contenimento indicati nel messaggio di allertamento inviato al loro device. Cioè, a te arriva appunto un messaggio, uno scritto: sei entrato a contatto, con qualcuno, dovresti fare questo, dovresti metterti in quarantena, dovresti presentarti all'ASL, dovresti richiedere il tampone, a seconda dei livelli che saranno giudicati in automatico da questa roba qui, di distanza, di tempo di contatto, eccetera, sostanzialmente ti tocca una procedura diversa, che comunque è volontaria, cioè te puoi anche ignorare questa cosa. L'altra è la procedura proattiva, e questa è molto strana come viene formulata, anche perché ci si punta di più che su quell'altra. Cioè, guardate, se io vi ho letto come era descritta quell'altra, ora vi leggo come viene descritta questa. Questa opzione prevede, come da corrente prassi di contact tracing manuale su linea guida OMS e CDC, che l'autorità sanitaria richiede e ottenga l'identificazione nominale da parte dei soggetti destinatari dei messaggi di allertamento a seguito di avvenuto contatto con pazienti positivi, prevedendo opportune sanzioni per le eventuali inadempienze. Cioè, di questa rispetto a quell'altra, di nuovo, in come viene posta, io capirei che è quella cosa da fare. Uno, perché qua ti dicono che è già come viene il contact tracing manuale, quindi te le stanno già buttando, già, però già facciamo così. L'altra cosa è il fatto che qui c'è una sanzione per eventuali inadempienze, che è una roba, secondo me, non banale. Non banale, perché mentre nel contact tracing manuale tu hai davanti una persona con cui parli, essenzialmente, cioè qua si sta parlando di sanzioni in presenza di automatismi proni ad errore. E questa roba qui, secondo me, anche solo il fatto che venga delineata con questa leggerezza è problematico. Insomma, a me non mi ha fatto molto piacere leggerlo. Ecco. E questo è quanto. Ora vi lascio a un pochino di musica, poi magari si torna tra 5-10 minuti, insomma, a breve, con questo documento, vi dicevo, francese, che è interessante perché appunto riflettono anche loro sulla loro app, che si chiama diversa dalla nostra, si chiama tipo Stop Covid, e vedremo che ci sono dei punti buffamente in comune. Tra queste due app nazionali, e E questa roba sembrerà buffa perché proprio leggendolo alcune volte si aveva l'impressione di dire io pensavo di stare nella Repubblica delle Banane, invece evidentemente stiamo messi un po' tutti così, a parte forse pochi, non so, però sicuramente in Francia non stanno messi meglio di noi da questo punto di vista, ecco. E quindi niente, vi lascio con un pochino di musica, vediamo un po'. Tata, che ci possiamo sentire. Trovato. Rieccoci, rieccoci qui. Allora, si parlava appunto di questa roba, di questi documenti francesi. Ora non parliamo subito di quello relativo all'app, ma bensì volevo iniziare con un'altra cosa, con un documento sempre proposto dallo stesso giro che ha scritto il documento sulla loro app, ma trattasi di un documento di 13. No, di un po' di più, scusa, di un po' di crittografi che hanno studiato questi protocolli in varie maniere e in particolare hanno tentato un esperimento abbastanza interessante, cioè dal punto di vista di come si analizzano questi protocolli, hanno tentato di dire ok, analizziamo il problema dei falsi positivi o dei positivi costruiti ad hoc o come si potrebbe fare a costruire su questo sistema dei meccanismi che in qualche modo ne falsino l'efficacia. Ora, perché questo è interessante? Perché questo esperimento mentale di costruzione è in realtà un esperimento che ci permette di valutare anche dei casi che poi accadranno, nel senso che qui ci dà per scontato che ci sia un meccanismo di attacco-difesa, un meccanismo malizioso, cioè qualcuno che vuole in qualche modo sfruttare il sistema per ottenere un qualche tipo di vantaggio e poi vedremo comunque per incasinarlo. Però questo sistema di procedere è esattamente come si fa per valutare la robustezza di una soluzione tecnologica. Cioè, ci si pone in quest'ottica per vedere se quella soluzione tecnologica risolve i problemi, confidenti che quegli stessi problemi capiteranno senza che ci sia bisogno di malizia. Cioè, quel modo è un modo per classificare, i meccanismi che creano, i falsi positivi, che è per prendere quel meccanismo automatico e in qualche modo dire ok, però un meccanismo automatico posto in una situazione reale, quindi ha a che fare con delle persone che automatiche non sono, come si comporta? Cioè ci aiuta o è una roba che semplicemente ci incasina ancora di più? E vediamo che loro hanno avuto abbastanza delle belle idee a riguardo e in particolare loro delineano questi esempietti portando di, diciamo, di vita vissuta, portando degli esempietti proprio, alcuni sono calzanti, altri sono meno calzanti, alcuni non sono veramente applicabili, però fanno capire bene qual è il ragionamento che ci sta dietro. Ora, analizziamone alcuni dei più bellini. Tipo, questa cosa dell'anonimato, no? Cioè il fatto che il contatto è anonimo. Ora, proviamo a leggere questo qua, che è il secondo che loro delineano, che è l'unico sospettato. Il signor Lambda, che per evitare il contagio non esce di casa se non per correre dal verduraio di quartiere, riceve una notifica sul proprio telefono. Ne dedurrà che il responsabile non può che essere il verduraio. Questa roba qui sembra una cazzata, però ti dice quando, quanto questa roba sia abbastanza poco anonima, no? Nel senso che effettivamente se io faccio attenzione, faccio poche cose, ho pochi contatti e mi arriva il messaggio, e chi sarà la persona? Sarà una di quelle poche con cui ho avuto i contatti. Quindi è anonimo solo nel caso io giri un casino e quindi dica, ah, chissà chi sarà stato di quelli lì. Magari ho incontrato, girato, sono andato, ho preso il tram, eccetera. Ma sì, io non fo un cazzo nulla. Cioè, in realtà questo sistema è zero anonimo. E un'altra cosa abbastanza interessante invece, questa roba qui. Valutiamola perché è buffa. Tipo, i miei vicini sono malati? Allora, il signor Ipocondriac vuole sapere se i suoi vicini sono malati. Recupera in un cassetto un vecchio telefono. Ci installa sopra l'app di tracciamento e la lascia nella cassetta delle lettere al piano terra del palazzo. Tutti i vicini ci passano accanto mentre tornano a casa e il telefono riceverà una notifica se uno tra loro è malato. Quindi tendenzialmente si vede come non solo diciamo gli enti sanitari sappiano cose in questo senso, ma che in realtà forse io sfruttando bene questo meccanismo posso sapere su un numero ristretto di persone più cose di quelle che sa l'entità sanitaria, che comunque per riuscire a svelare questa roba dovrebbe comunque ricredere e ricorrere a un certo punto a una qualche forma di contact tracing manuale. Cioè, anche nel caso diciamo più invadente di un'app in cui, ad esempio, l'autorità sanitaria in caso di contagio de-anonimizzi completamente questi numeretti generati a caso andando a vedere da che telefono arrivi e gli telefoni a casa. Comunque avrebbe bisogno di avere un contatto umano, cioè di telefonare a casa, di qualcuno che vada lì, anche posto che sappia ricostruire, no? Cioè non mi telefoni a casa, in realtà richiami il numero che corrisponde al numeretto. Avrebbe comunque bisogno di questo, di quest'ulteriore fase, che non è prevista comunque dall'app nostra, però era per fare delle, cioè non è prevista, non lo sappiamo, non sappiamo un cazzo di come sarà fatta, però da come si presenta più o meno sembra che quella roba lì non ci sarà, però non si può mai dire perché magari cambiano all'ultimo, gli schizza al cervello e decidono che ce la mettono, però tendenzialmente è così, però appunto con uno stratagemma di questo tipo si vede bene. Un'altra cosa che ad esempio potrebbe, loro la pongono sempre in quest'ottica, però appunto non vanno presi alla lettera queste robe, ma va capito come comunque questi raccontini celino dietro il falso positivo che poi accadrà, magari senza malizia, ma sarà esattamente quello che succederà. Allora, quest'altra è in cerca di lavoro. L'azienda Svendut vuole assumere una persona per un contratto a tempo determinato. Vuole assicurarsi che il candidato nel periodo che va dal colloquio alla firma del contratto non si sia ammalato. Utilizza quindi un telefono dedicato che viene acceso soltanto durante il colloquio e che riceverà una notifica se il candidato in seguito è risultato positivo. Forte, no? Anche questa. E E poi si potrebbe creare, e loro lo delineano, un mercato del contagio miraso. Cioè, io non so che te vengo a sputare addosso, che comunque è una roba che sarebbe anche possibile. Però, no, quello che noi ci poniamo è sostanzialmente non il contagio miraso, nel senso che sei veramente contagiato, ma l'incontro mirato con contagiato. Cioè, si potrebbe creare un mercato parallelo di quelli sul dark web, tipo per esempio, no? Dove tu compri questo servizio. Cioè, io ti voglio mettere a casa per 2 settimane per qualche motivo, no? Tipo, che ne so, abbiamo un consiglio di amministrazione aziendale, io che sono uno nel CDA che sono in scazzo con un altro, dico, io vorrei fare questo consiglio di amministrazione senza che lui mi rompa coglioni. Allora mi piglio questo servizio. E praticamente trovo il modo, lo affitto, poi sono cazzi di come fa quello qui che pago, e lui prende il telefono di uno che è prossimo, che presenta sintomi da Covid, me lo vende come servizio, no? Cioè, si può fare. Che presenta sintomi da Covid, trova il modo di stare vicino, ma non fisicamente, basta che siano vicini i due telefoni, no? Cioè, quindi trova il modo di avvicinare il telefono di questo qua a il telefono della persona che io voglio mandare a casa e poi alla data prefissata, cioè tipo 2 giorni prima, questa persona si dichiara positiva, cioè va fa fare, sa, magari sapeva che aveva il tampone, e fa il tampone, risulta positiva, zac, contatto, boom, a casa. E io il CDA me lo faccio sostanzialmente senza il mio concorrente. Questa è un'altra roba. Loro la presentano anche in maniera diversa. Tipo, ad esempio, fanno il caso di una partita di calcio, dove, però il campionato è fermo e quindi si capisce poco. Però dice: il calciatore Ronaldo deve giocare la prossima partita, in programma della Champions League. Per impedirgli che possa giocare, basta che un avversario lasci il proprio telefono vicino a quello di Ronaldo a sua insaputa e che poi si dichiari malato. Ora, questa cosa del dichiari malato, però, non funziona dappertutto così. Però diciamo che e poi risulti malato. Ronaldo riceverà un'allerta che gli dice che è stato in contatto con una persona contagiata e dovrà rimanere 14 giorni lontano dal campi da calcio. Cioè, si capisce insomma il giochino qual è. Loro fanno molti esempi su questa scia. Ripeto, non è che sono prendere proprio alla lettera, come dire, oh mio Dio, ma è per dire quanto non sia tanto il protocollo che usiamo, ma quanto sia proprio il sistema che è prono all'errore. E quindi c'è un altro dato che è interessante. Ora, con questi esempi qua, magari li stoppiamo perché appunto poi cercheremo magari di pubblicare il documento per intero perché è interessante, vi cerco di mettervi dei riferimenti poi sul blog così ve li leggete tutti, però fidatevi che tendenzialmente sono 13 esempi, però si ripetono molto gli schemi. Non ho ben capito se fanno riferimento più o meno diretto a qualche forma di analisi veramente di protocolli crittografici, cioè se questi esempi siano così ripetitivi perché fanno riferimento a sfumature che si usano normalmente nell'analisi dei protocolli, o se semplicemente li sono venuti questi 13 esempi e li hanno scritti, me lo devo guardare un po' meglio. Però tendenzialmente una cosa che scrivono di interessante i francesi che hanno poi anche messo in risalto quest'altro documento è che in Cina, che viene sbandierato, no, come non plus ultra, ma loro quelli sono matti, che hanno la app con i colori, eccetera. Cioè, comunque, tipo loro impiegano 5 persone per ogni contagiato per il contact tracing. Cioè, che è folle, eh? Cioè, per carità, però, quando si dice il contact tracing è molto oneroso, sì. E grazie a cazzo, però perché funziona in quei luoghi lì? Cioè, non solo perché c'hanno l'app, ma perché per ogni contagiato loro mettono 5 persone che gli sguinzagliano in media 5 persone, capito? Per capire che cosa ha fatto, dove è stato, quando, perché. A quel punto sì, c'hanno pure lo smartphone, però c'hanno 5 persone. Capito? Noi c'è questa illusione che è tipica appunto di questo atteggiamento un po' da ricercare nella tecnica, soluzioni che la tecnica magari non ti può dare. E cioè noi ci immaginiamo questa è perché che come si apre anche la relazione della commissione, no? È perché comunque il contact tracing è un'attività molto onerosa che prende troppo tempo e quindi la dobbiamo automatizzare. Cioè sì, grazie a cazzo, però cioè, secondo me gli altri sono scemi che ci mettevano 5 persone per fare questa. È perché magari e la tua volontà di automatizzarla è una pia volontà e il problema è che non funziona. E questa roba qua magari andrebbe anche pensata e analizzata. C'era ancora una cosa che vi volevo leggere in realtà della nostra della nostra relazione che era un po' una roba conclusiva che però a me mi aveva colpito perché diceva proprio una roba che negli scenari studiati è evidente che l'uso di tecnologie per il contact tracing ha la maggiore efficacia prima del termine del periodo di lockdown, quando le misure di isolamento hanno consentito di ridurre il più possibile il tasso di riproduzione di base dell'infezione. Quindi al 7 aprile, quello che era stato suggerito da questa commissione è comunque che è evidente che l'uso le Lo rileggo, che l'uso di tecnologie per il contact tracing ha la maggiore efficacia prima del termine del periodo di lockdown. Prima del termine del periodo di lockdown, no? Ammesso che ci abbiano ragione anche sull'efficacia, però comunque era prima del termine del periodo di lockdown. E quindi niente, però noi forse per metà giugno appunto avremo questo strumento utile. Che era efficace prima. E vabbè, comunque era per dire quanto che bello il mondo della fuffa. E ora vi lascio un altro po' di musica, poi magari guardiamo un altro poco questo testo dei francesi che vi dicevo che parla invece proprio della loro app che si chiama appunto Stop Covid. E poi invece volevo darvi cioè omaggiare una persona che era una persona abbastanza nota nel campo della, diciamo, come lo definiamo, della net art, dell'attivismo digitale, di quel giro dell'underground italiano che purtroppo è morta in questi giorni. E quindi vi volevo leggere un pezzettino dal suo blog, ma questo in chiusura cioè dal suo sito che è rimasto lì, in qualche modo quel pezzettino dei suoi scritti gli è sopravvissuto. E appunto vi volevo leggere questa cosa per riportarla, insomma, per ricordarlo in qualche modo, anche farlo conoscere a chi non lo conosceva e omaggiarlo, però questo appunto a fine della trasmissione in chiusura. Ora metto un altro pochino di musica e poi appunto ci si risente tra qualche minuto. You don't never need help from nobody else. All you got to do now, express yourself. Whatever you do, do it good. Whatever you do, do, do, Lord, Lord. You look like when you're doing what you're doing, it's what you're doing when you're doing what you look like you're doing. Express yourself, express yourself. You're doing it on the moon, y'all, in the jungle, too. Jumping like a kangaroo. people have everything and other people don't. But everything don't mean a thing if it ain't the thing you want. Express yourself. Express yourself. Eccomi qua di nuovo. Allora, vi dicevo appunto di questo documento che hanno prodotto essenzialmente il giro di Framasoft, che è sono un collettivo che fornisce un po' di strumenti utili, forse alcuni li conoscete, c'è tipo Framatalk, un'istanza di Jitsi, poi c'è Framadrop, che è una roba per passarsi file. Insomma, hanno diversi strumenti che forniscono liberamente, e poi sono anche appunto un collettivo che si occupa di questioni del digitale in maniera piuttosto critica e sensata, secondo me. E loro appunto scrivono: è interessante il giudizio generico di questa Stop Covid. Dice: Stop Covid è uno specchietto per le allodole, un miraggio, come la magia è un'illusione. E questa illusione permette di eludere nella testa delle persone tre idee molto pericolose. Non so se eludere è il termine giusto, però si capisce abbastanza. Insomma, praticamente, secondo loro, questa app ci prepara ad avere un qualcosa che sorvegli i nostri comportamenti, che ci seguirà dappertutto per il nostro bene e quello degli altri, senza che questo impatti sulle nostre libertà fondamentali, il che è sostanzialmente falso. E quello che loro dicono è che il problema non è tanto se si può fare un tracciamento senza mettere a rischio la vita privata, ma il problema è: accettiamo di essere tracciati e dunque di fare un altro passo da gigante verso la società del controllo? Cioè, quello che loro pongono è questo problema. Il tracciamento automatico è un passaggio da cui poi è difficile tornare indietro. E poi l'altra cosa che chiedono, cioè che dicono, è che questa app continua a lasciar credere che la tecnologia è neutra e che può essere invocata come una divinità per risolvere i nostri problemi. Non è un caso che tra i più ardenti difensori di Stop Covid troviamo un buon numero di ingegneri ed informatici, che spesso in queste situazioni si rivelano stupidi, e questo è un fatto. E poi il terzo punto, che è collegato al secondo in verità, dice: non è nulla di nuovo sotto il sole, cioè non ci stupisce questa cosa appunto, da quando l'uomo cerca di considerarsi Dio, visto che Dio è morto, beh, di Nietzsche che l'ha detto, ma questa ricerca di potere divino sembra più che altro averci reso completamente stupidi. E su questa cosa qua poi citano, in realtà iniziano a parlare appunto di questo studio di Science4, che è quello che viene citato un po' dappertutto, quello da cui deriva questo fatidico numero del 60% deve installare la un servancazzo e via così. E un'altra cosa che loro notano è che questo bel giro di, insomma, di questa bella trovata dell'app è qualcosa che deresponsabilizza lo Stato, cioè riportando su comportamenti individuali ciò che dovrebbe derivare da un'azione collettiva, soprattutto quella dei poteri pubblici. E poi a qui appunto cita l'esempio della Cina, che non è che è un paese che brilla diciamo per tecno, cioè per non aver, per non essere cosiddetto appunto tecno-soluzionista, cioè loro se la giocano abbastanza questa roba, però nonostante questo e nonostante essere appunto un paese dove uno non ha molte libertà, cioè non è che da noi invece si sprechino ultimamente, però diciamo che nonostante questo, cioè nonostante loro appunto potessero permettersi degli comportamenti che noi identifichiamo come quelli da Grande Fratello, nonostante questo loro hanno comunque costruito un'equipe appunto di almeno 5 persone che seguono ogni caso per fare contact tracing. Quindi la loro fiducia nell'app era molto meno di quella che riponiamo noi in Occidente. Da lì sembra veramente per questo l'aspecchietto per l'allodole, o comunque un meccanismo che lo Stato c'ha per dirti: ma per forza poi, capito, non riusciamo a uscirne da questa cosa. Cioè, non vi siete installati l'app, è colpa vostra, no? Era un po' come dire: è colpa vostra, andate, cioè, ci sono i runner, capito, che vanno a correre, c'è il tipo che va a prendere il sole in spiaggia, c'è quello che si fa la grigliata da solo, e per forza è un casino. E che sarà anche per forza un casino, però, cioè, di fatto, cioè, la strage nell'RSA non è che l'ha fatta il runner, cioè. E su questo qua vorrei aprire, cioè, o si dice che la colpa che è tutto iniziato perché i runner correvano attorno in cerchio all'RSA, o se no è evidente che, cioè, nel senso, i medici che si ammalano anche lì, non è il tipo che si è fatto la grigliata al parchetto, perché è difficile sostenere che tutti i medici hanno incrociato uno che faceva una grigliata in un parchetto, no? E quindi tendenzialmente. E questo scrivono. E appunto è interessante. Poi altre considerazioni invece fatte un pochino sopra, non da questi di Framasoft, ma che rientrano però dove è stato citato questo documento ed è una specie di introduzione al documento o postfazione, non ho ben capito in realtà dove sta. Allora, però insomma è una relazione sempre di una persona che parla di queste cose da informatico, da tecnico, penso da crittografo, e lui dice sostanzialmente che non troverete in questo mio testo, di cui io ho solo un pezzo della traduzione, però è un testo appunto che si fa in questa, cioè che è preso dal blog di questa di Framasoft, cioè non troverete qui un'analisi dell'app annunciata dal governo francese Stop Covid, per la chiara e semplice ragione che questa non esiste. E questo a me mi aveva colpito molto perché è la stessa cosa appunto che diciamo noi in Italia. Cioè, non possiamo fare l'analisi perché non c'è, e quindi la continuano ad annunciare e non c'è. Ci sono state delle promesse, no? Vi ricorda qualcosa? Sotto forma di qualche parola tipo anonima, su base volontaria, anche questo vi ricorda Quarol. Vi ho letto prima qual era capito, la roba del garante della privacy in cui base volontaria, anonima. Ma non è stato pubblicato nessun dettaglio tecnico. Oh, guarda che strano, anche da loro. Allora, vedi che non siamo solo noi. Ad oggi non è quindi possibile dire niente di serio su questa specifica app. E da qui la domanda: ma veramente vuoi parlare seriamente dell'app? E almeno di questo, secondo me, c'è poco da fare. E quindi nulla. Poi l'altra cosa che faceva notare è che appunto è difficile, fare un'analisi della situazione perché evolve talmente in fretta, cioè cambiano idee in continuazione, sviluppano, cioè sviluppano, non sviluppano, ma comunque si, cioè questa cosa dei protocolli, ad esempio, dal 7 aprile sembravamo che adottavamo immuni, che adottava questo protocollo, che poi si è capito che in realtà è un non protocollo perché è stato scaricato da tutti ed è sembra una roba di fuffa, e poi comunque anche se potessimo usare quello, tanto poi alla fine ci servono le app di Google e di Apple, e quindi alla fine facciamo quello che Google e Apple ci fanno fare e non implementiamo nessun cazzo di protocollo. E poi comunque l'app Immuni non si sa neanche più se si chiama Immuni, perché il nome effettivamente faceva cagare. E quindi non si sa neanche se cosa ce ne facciamo di sta roba qui, che tanto se la devono riscrivere tutta quanta. E vabbè, e questa è un po' la situazione. Quindi lui dice appunto: è un po' difficile scrivere di queste cose perché ci sta benissimo che tra 2 settimane tutto quello che ho detto e scritto non valga un cazzo, perché poi hanno fatto completamente diverso. E quindi è difficilissimo anche basarsi su qualcosa. Per quello vi leggevo appunto i cose del garante della privacy, perché almeno si è capito dei punti. Cioè, è solo quando lui si esprime, si spera, che se lui dice è su base volontaria, uno capisce, ah ok, allora è su base volontaria, non può essere né deincentivata né dice, ah ok, allora sarà così, e hai messo un punto, che comunque non è tecnico, perché di tecnico finora non si sa un cazzo nulla. Ma meglio, tanto c'è, cioè, quello ce ne frega. Poi quello che si scrive, che scrive in questo articolo, che sembra abbastanza di buon senso, è: in breve, questo progetto di app di tracciamento, più che per risolvere un vero problema, sembra motivato dal desiderio di agire, di fare qualcosa, anche se inutile. Desiderio, pio desiderio, insomma, anche se inutile, desiderio comune in tempo di crisi. Quello che gli anglofoni chiamano la malattia del do something it is. Cioè, devo fare qualcosa sostanzialmente. Lui è già buono, perché io ad esempio ci leggo molta più malizia, cioè non è il desiderio di fare, è proprio che ti devi parare al culo perché non sai, pu non puoi fare le cose giuste e quindi devi fare qualcosa. Per fare qualcosa sparo cazzate sostanzialmente. Ci sono anche delle spinte commerciali che spiegano come certe aziende si facciano pubblicità affermando di lavorare su questo tema senza tenere conto dei lavori esistenti. Vabbè. Questa roba qui da noi era già uscita abbastanza subito su Repubblica, il fatto che ci sono abbastanza interessi convergenti di alcune personalità abbastanza influenti nel mondo economico, che appunto avevano investito su l'azienda, tipo appunto c'è, cioè, un figlio di Berlusconi, no? Era uno di quelli che gli piacciono le scommette sulle app, e guarda caso aveva buttato dei soldi lì, guarda caso l'azienda che ha vinto poi l'appalto aveva appunto buttato una milionata di euro nel fondo Covid, così come donazione, e a tutto guarda caso. Sono cose che, cioè, non c'è niente di illegale in realtà, è tutto guarda caso. Allora, poi lui scrive: ma soprattutto un'app ha senso soltanto se poi si fanno dei test alle persone per sapere chi è già contagiato. Dato che si può essere contagiosi asintomatici, senza sintomi visibili, oppure testare queste persone asintomatiche, che sono indubbiamente quelle che rischiano di contagiare un maggior numero di persone, ignorando la loro condizione uscendo di casa. Ora, Macron, e qui c'è un déjà vu, ha precisato nel suo discorso del 13 aprile che non verranno testate le persone asintomatiche, probabilmente perché non ci sono tamponi disponibili, e questa era la situazione nostra ai tempi, identica. Uguale, no? Nel senso che se te eri asintomatico, ma vivevi ad esempio con una persona che è risultata positiva, magari asintomatica anche lei, ma positiva, comunque te sparavi la quarantena, ma non ti veniva fatto il tampone. E questa cosa qui è vera ancora adesso, cioè, dove non si capisce appunto quali sono i tempi certi di questi tamponi. E quindi è interessante questo parallelo tra la situazione italiana e quella francese, che comunque ti fa sentire meno soli, perché vuol dire che siamo tutto il mondo è paese, e è così. E poi vabbè, non so bene, salterei tutti i dettagli tecnici di questa cosa, perché appunto secondo me ne abbiamo parlato già in maniera fin troppo diffusa, quindi vi salto le considerazioni tecniche di questo documento, però si potrebbe fare che provo in qualche modo a rendervi possibile, disponibile poi la traduzione integrale in modo che ve lo possiate leggere perché fa appunto anche delle considerazioni tecniche che io per ora non c'ho voglia di fare, ne abbiamo già parlato troppo. Quindi vi metto della musica e poi chiudiamo la trasmissione, così sono le 9, vi ho tenuto compagnia un sacco questa sera. Spero appunto con piacere e senza troppa noia, se no pace. Comunque tanto ancora non potete uscire sabato sera, non ci avete un cazzo da fare, quindi cioè, alla fine potete starmi a ascoltare ancora un pochettino, un poco, poco, giuro poco, prometto. Eccomi per la chiusura. Vi dicevo un punto che avrei letto un pezzo preso dal sito verdejack.org, appunto il sito di Giacomo Verde, che è appunto un artista compagno che è morto la settimana scorsa. E appunto a me era venuto in mente che poteva essere bello leggere questo suo scritto, che per chi non lo conosce forse è una cosa abbastanza rappresentativa del personaggio. E si trova su verdejack.org/zombie e così, insomma, così è scritto. Oggi l'artista è un sopravvissuto, anzi un morto vivente, uno zombie, perché l'arte è morta. Sì, l'arte è morta e gli artisti sono zombie. Essere artisti vuol dire insistere a proporre un modello di arte ormai obsoleto, utile solo a se stesso, alla propria sopravvivenza. L'artista è uno zombie perché si nutre di organismi viventi, di eventi vitali e di vita reale per trasformarli in simulacri, rappresentazioni, feticci museali, cose senza vita, decorazioni, nature morte. E tutto per cercare di sopravvivere in un contesto malato, infettato, dove solo i mutanti, i morti viventi, possono aspirare all'immortalità. L'artista è uno zombie, perché comunque sia, si muove più lento del mondo dei vivi, più lento della storia. Ha anche se nel corso degli anni ha imparato a correre. Comunque non basta. L'artista è uno zombie, perché è sempre uno schiavo, un resuscitato per essere sfruttato nelle piantagioni dell'immaginario. Non decide mai in prima persona cosa fare. È un servo degli eventi che lo circondano. Segue solo il suo istinto di sopravvivenza. L'artista fa paura come uno zombie, perché sta sempre sul confine tra la vita e la morte. Sopravvive nel presente, ma sta nel passato. È stato vivo, è stato morto, adesso è un morto vivente senza memoria. L'artista è ridicolo come uno zombie che si muove barcollando, incapace di afferrare velocemente la vita, la propria preda. Goffo nei movimenti e facile da prendere in giro. Comico nella sua ingenuità, anche i nuovi zombie, che sanno correre e ringhiare paurosamente, sono comunque comicamente vulnerabili. L'autoritratto è sempre stata l'unica e vera opera d'arte, perché l'artista ritrae sempre se stesso anche quando riproduce il mondo che lo circonda. Quindi l'unica opera d'arte che può fare uno zombie è l'autoritratto. I vivi non sono artisti, ma sono arte vivente. Per questo gli zombie li mordono, li squartano, li mangiano. Perché gli artisti vivono d'arte, così come gli zombie mangiano i vivi. Fare arte non vuol dire essere artisti. I vivi sono e fanno arte continuamente, senza che si definiscano artisti. L'arte dei viventi è un'arte incosciente, un fai da te, un artigianato. Prendere coscienza dell'arte vuol dire infettarsi e trasformarsi in zombie. Chi sopravvive al morso di uno zombie si trasforma in zombie. Se l'artista non ti uccide, ti trasforma in artista. Il virus che ti entra in testa attraverso la ferita ti fa credere di essere più creativo degli altri e ti spinge ad azzannare i viventi. Gli zombie muoiono solo se colpiti in testa, solo se il cervello smette di funzionare, come a rendere evidente che l'arte è sempre stata frutto del pensiero prima che delle mani, perché essere artisti è una presa di coscienza, è un virus mentale. Per sopravvivere come artista bisogna che il cervello sia ancora attivo. Per sopravvivere come immortali bisogna che il cervello continui ad ospitare il virus. Per essere zombie bisogna far pensare il virus che ci possiede, ma solo quanto basta a sopravvivere per replicarsi, come dementi. Se uccidi uno zombie non è un omicidio, era già morto. Se uccidi un artista è un omicidio? Io sono un artista, io sono uno zombie e ne sono cosciente. E questo era appunto tratto da il sito di Verde Jack tant'è e vi saluto per questa sera. Insomma, volevo chiudere appunto con questa lettura di questo pseudo manifesto zombie e vi lascio appunto ancora un po' a un pezzo musicale e vi do appuntamento per le prossime dirette di Radio Wombat a domani alle ore 7 e così penso ancora tutta la prossima settimana. Poi probabilmente si deciderà un rimpasto del palinsesto che tornerà forse a un'attività più normale, magari con qualche wombat regia fisica che si riattiverà. Probabilmente ci sarà un rimpasto degli orari perché appunto reggere i ritmi 7-9 con l'inizio delle attività, il lavoro, eccetera, potrebbe non essere una cosa che reggiamo ancora per molto, però non pensiamo di mollare il colpo, anzi in questi, appunto in questi mesi abbiamo affinato un sacco le nostre tecniche radiofoniche, la nostra capacità di sparpagliarci e comunque riuscire a trasmettere, e quindi saremo comunque molto presenti, credo, sì. Cioè, penso che il palinsesto verrà riaggeggiato, ma continuerà a essere piuttosto ricco, e tant'è. E quindi niente, un pezzettino per chiudere e poi la bobina e ci risentiamo domani verso le 7 con la prossima diretta, non da parte mia. I got a little soul. I'm gonna